in questo momento siamo a Stirling, al Campo di Horizon, e stiamo cucinando un piatto di pasta, perché qua la cucina vegana ad alcuni pesa, allora questa sera pasta con i sapori meridionali. Ma tornando indietro nel tempo, da quando siamo arrivati in Scozia, venerdì sera ci sono arrivati ad Edimburgo, siamo stati subito confrontati con una polizia asfissiante che controlla, filma e si permette di, cioè filma in mezzo ai manifestanti e si permette di identificare con un taccuino i segni particolari e tutto. La stessa sera volevamo occupare un campeggio, ce l'hanno impedito, ci hanno costretto a servirci di un campeggio messo a disposizione della città, dove addirittura c'erano i fari, la torretta di guardia, le videocamere, ed è stata una condizione molto frustrante. Il giorno seguente, sabato, c'è stata la manifestazione ufficiale per l'allargata, hanno partecipato 250.000 persone e poi abbiamo passato la giornata al Media Center. La domenica l'abbiamo passata a Sciarra, abbiamo deciso cosa fare il lunedì, che c'erano le due azioni, una era quella pacifista alla base dei sottomarini di Paslante, l'altro era un carnevale a Edimburgo, che era una sorta di azione, cioè avrebbe dovuto essere un'azione contro il precariato e fare azioni, cioè avere degli obiettivi specifici lungo la città, ma ci hanno lasciato pochissimo spazio, siamo stati fermati, bloccati, siamo stati caricati a cavallo e dagli antisommossa e vabbè, ci sono stati una sessantina di fermi. Poi fammi pensare cosa abbiamo fatto ancora. Allora, il giorno seguente ci siamo trasferiti, no, la sera stessa ci siamo trasferiti qui a Stirling, che è a nord di Edimburgo, è circa 30 km, a 20 km da Green Eagles, dove è il vertice. Qui c'è un grande campeggio che si chiama Horizon, è una rural convention, è un campeggio dove ci sono tra le 2 e le 3.000 persone, estremamente organizzato, con tutti dei piccoli quartieri, dove il barrio, dove ognuno ha la sua cucina, dove si tiene a sentire il quartiere. Noi siamo al barrio irlandese. Appunto, abbiamo passato qui a prima sera, una bella sera scozzese, e il giorno seguente è stata una giornata molto stressante, perché si sono organizzate tutte le assemblee per organizzare i blocchi di oggi, ed è stata una giornata stressante perché è stato molto difficile riuscire a profilarci, unirci a un gruppo di affinità. Poi c'era un sacco di pressione perché si diceva che dopo una certa ora ci avrebbero bloccati dentro il campeggio e non saremmo più riusciti a uscire. Abbiamo passato tutta la giornata a discutere, a decidere, c'era l'opzione di andare a Glasgow dove si tenevano delle azioni. E alla fine siamo rimasti qua, alla fine non abbiamo dormito e siamo usciti dal campeggio alle 3 di mattina con un grosso gruppo per riuscire a fare un blocco in autostrada. Parallelamente, precedentemente, molti gruppi sono usciti durante la notte, si sono spostati durante la notte e si sono piazzati nelle varie strade, nei vari punti cruciali. E ora, dopo un'altra giornata estenuante, dopo praticamente dove non abbiamo dormito, dove si sono già tenute altre due assemblee, alla fine i blocchi si sono fatti. Qui c'è stato un casino, cioè si sono bloccate vie di comunicazione e che dirvi di più, c'è una fatica, e ora stiamo già organizzando la giornata di domani. Parallelamente i compagni di Green Eagle sono riusciti a invadere la zona rossa e ora, sembra ancora in questo momento, sono ancora assediati dalle forze speciali militari, e sembra che in tutto tra qua e Green Eagle si siano stati 300 fermi. E vabbè, ragazzi, un po' tutto, siamo molto stanchi, però siamo caricati, stiamo facendo la pasta,